Ben ritrovato Alessandro D'Alessandro. Grazie, buonasera. Con te per parlare nuovamente del tuo lavoro Barbiana 65, la lezione di Don Milani, che sarà all'Apollo 11 a Roma, 20, il 20 febbraio. Alessandro, ti chiedo subito per chi ci ascolta, ricordiamo di cosa si parla. Si tratta di un documento che abbiamo costruito grazie a un materiale girato nel dicembre del 65 da mio padre Angelo a Barbiana. L'abbiamo recuperato, restaurato, era andato perduto e quindi diciamo che l'abbiamo, come dire, ricostruito grazie alle testimonianze anche di tre diciamo, figure fondamentali: Adele Corradi per quel che riguarda la scuola, Don Ciotti, la Chiesa e Beniamino Deidda per quel che riguarda, diciamo, la Costituzione, i tre pilastri un pochino del lavoro che Don Milani svolgeva a Barbiana, però sostanzialmente abbiamo cercato di riproporlo in modo integrale, circa 35 minuti totalmente inediti che ho ritrovato appunto dopo la morte di mio padre. Senti, si tratta di una casualità o è stata un'operazione mirata? In effetti è stata veramente come dire, un'avventura, io l'ho definita umana, anche personale ovviamente, perché dal 2013 in poi io ho cominciato a ordinare l'archivio di mio padre e avevo trovato le bobine audio, prima quattro, poi ne ho trovata una quinta totalmente inedita e quindi ho cominciato a cercare la pellicola. Non è stato facile perché si tratta veramente di tantissimi materiali che ancora adesso sto diciamo riversando, cioè in qualche modo per capire cosa c'è dentro, e siccome spesso le etichette tra l'altro non corrispondevano ed è un miracolo infatti di averlo ritrovato in queste condizioni, ho dovuto poi faticare per riabbinare l'auto diciamo alla pellicola. Sì. Ecco, quindi no, davvero è stato per me miracoloso, soprattutto le condizioni in cui l'ho ritrovate. Sì. Senti Alessandro, considerato che si parla di pellicola, cosa ti ha impressionato di questo documento? Io ho ritrovato la testimonianza che mio padre rilasciò a una rivista che si chiama appunto Testimonianze, che era diretta all'epoca da Balducci, e le stesse impressioni che ebbe lui insieme all'operatore Antonio Piazza e al montatore, che furono di grande meraviglia per la forza che assumeva tutto il modo di stare davanti alla macchina presa da Don Milani, cioè conto era leggere tutto quello che era stato scritto fino a quel momento, era il 65 quando mio padre realizzò le riprese, poi Don Milani venne a mancare nel 67, era già molto malato, ma fece in tempo a seguire la prima edizione di Lettera a una professoressa, ma vederlo davanti alla macchina presa, ascoltare la sua voce, percepire proprio il suo carisma, il suo modo di stare insieme ai ragazzi, ci ha tutti molto impressionato e devo ringraziare il Cinecittà Luce perché il restauro è stato fatto a un livello veramente eccellente, cioè davvero sembra girato ieri, davvero. Rispetto alla figura di Don Milani, cosa mantiene di attualità il suo messaggio, Alessandro? E qui si ricollega proprio diciamo, all'evento del 20 febbraio, che ha avuto il sostegno appunto dell'ONU, cioè in sostanza abbiamo riproposto il film in più di 40 città, in varie sale e scuole italiane, in occasione della giornata appunto mondiale della giustizia sociale, e quindi col sostegno dell'ONU, del MIUR, del Ministero della Pubblica Istruzione, perché diciamo, si tratta di proiezioni, tra l'altro alla presenza di varie personalità della cultura, dello spettacolo, con dibattiti, anche una lettura, alcuni brani, diciamo, tratti da Lettera a una professoressa, per appunto. Ma diciamo che proprio l'evento, diciamo, della giornata mondiale della giustizia si abbina perfettamente al pensiero di Don Milani, che è racchiuso nel film Barbiana 65. È la promozione ideale in qualche modo di quello che è il raggiungimento, che è nell'agenda dell'ONU, appunto, dei principali obiettivi di quello che è stato chiamato lo sviluppo sostenibile, quindi l'abbattimento della povertà, l'accesso all'istruzione, a un lavoro dignitoso. La parità di genere, oltre ovviamente alla sostenibilità, diciamo, energetica, urbanistica, ambientale, il tema della pace e della giustizia, insomma, tutti quei principi fondamentali che c'erano già, che Don Milani già predicava e praticava mezzo secolo fa, questo è il punto centrale. Senti, Senti, che tu sappia quante sono le persone che sono passate per la sua scuola. Beh, ci sono personalità veramente di tutti i tipi, per cui forse tu ti riferisci agli... Alla quantità proprio, se tu sai le cifre. Cifre precise non le so, certo ne ho conosciuti tanti che sono in vita, che sono stati varie volte intervistati, hanno rilasciato e continuano a farlo, a parlare di Don Lorenzo in giro per l'Italia. No, non ho una cifra precisa. Certamente ci ha raccontato delle cose molto interessanti appunto Beniamino Deida, che dopo la morte di Don Milani continuò a fare scuola a Calenzano, è rimasto così impressionato da quell'esperienza. Credo che lo incontrò una sola volta, ma in definitiva poi possiamo citare altri esempi in cui in qualche modo hanno cercato di replicare quel tipo di esperienza. Alessandro, dato che il tuo film è in tour in Italia dall'ottobre, dello scorso anno, volevo chiederti anche un bilancio di questo tour. Il bilancio fino adesso è stato più che lusinghiero per un documentario in sala, è stato visto veramente da tantissime persone, abbiamo tantissime ancora richieste, ci farebbe tanto piacere che ci fosse anche in qualche modo anche una messa in onda televisiva, uscirà sicuramente a breve un DVD. No, il bilancio è veramente molto positivo e soprattutto perché c'è una grande fame di tuffarsi in questa miniera che è Don Milani ancora oggi. Assolutamente, sono temi fondamentali, soprattutto quello che riguarda la coscienza individuale per i ragazzi che a scuola devono affrontare un percorso sempre più difficile, come lo è per gli insegnanti, e a cui si chiede un lavoro congiunto di sviluppare questo famoso spirito critico che consenta ai giovani di poter avere in qualche modo di conoscere i propri diritti di cittadini e poter decidere davvero da che parte stare. Queste sono le cose fondamentali. In chiusura, Alessandro, ci lasci dei riferimenti internet per saperne di più su questo lavoro? Sì, beh, c'è il sito proprio www.barbiana.it dove si può scrivere, si può leggere le varie testimonianze, la rassegna stampa, di chiunque può fare anche richiesta per poter avere il film, soprattutto per poterlo proiettare magari in una scuola, quindi agli insegnanti soprattutto. E poi esiste anche ovviamente una pagina Facebook che si chiama appunto Barbiana 65. E ecco, stiamo proprio in questi giorni avendo tantissimi contatti proprio perché ci sono richieste da parte delle scuole di tutta Italia, perché il film è stato reso disponibile tramite una circolare ufficiale proprio del Ministero della Pubblica Istruzione per chiunque lo voglia visionare, proporlo ai ragazzi della scuola di primo e secondo grado. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento a Roma, all'Apollo 11, 20 febbraio, per Barbiana 65, la lezione di Don Milani, di Alessandro D'Alessandro, che ringraziamo e salutiamo. Grazie, grazie, A buonasera. presto.